ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Se ne parla molto spesso in questi giorni del bonus per le riqualificazioni energetiche del 110%. Finalmente, forse, grazie a questo sforzo non indifferente, vedremo aumentare quelle che sono le cosiddette ristrutturazioni profonde degli edifici, cioè quelle che abbattono il fabbisogno energetico dell'edificio. Ricordiamo, fino a qualche tempo fa, con il precedente bonus del 65%, solo il 3% degli edifici venivano ristrutturati con questo obiettivo. Il grosso del bonus veniva utilizzato per sostituire serramenti e per sostituire le caldaie. E qui entra in gioco, invece, quando si tratta di abbattere i consumi di un edificio, il ben noto cappotto. Le tecnologie per realizzare il cappotto però sono numerose, poche sono quelle note, ma numerose sono quelle disponibili. E a questo proposito uno studio di progettazione che si chiama Studio Lancri ha fatto uno studio comparativo molto approfondito delle prestazioni dei diversi materiali, e noi ne parliamo con Elisa Lancellotti, ingegnere progettista nonché appunto titolare di questo studio. Buonasera Elisa, benvenuta. Buonasera, ciao Maurizio. Allora, quando si mette un cappotto su una casa, così come quando si mette un vestito, si hanno diversi impatti sul comportamento dell'edificio. Quando pensiamo al cappotto ci viene in mente prima di tutto il tema dell'isolamento, quindi la riduzione della trasmittanza, cioè della trasmissione del calore dall'edificio all'esterno o viceversa. Ecco, che cosa ci puoi dire su questo? Sì, la trasmittanza è l'isolamento termico del muro, cioè la conducibilità termica di un elemento costruttivo. Misura il passaggio del calore attraverso un elemento costruttivo, quale può essere il muro, il tetto o il solaio o il pavimento controterra. Più o meno quanto cambia in termini di dispersione termica, energetica, tra un muro un po' alla buona, diciamo, e un muro isolato bene con un cappotto? Un muro ad una testa può avere una trasmittanza di anche 2,6 watt su metro quadrato Kelvin. Facendo un cappotto la riduciamo di 10 volte, ecco. Quindi si arriva a uno 0,2 che poi insomma può variare in base a praticamente qualunque tipo di cappotto si esegue, si raggiunge una trasmittanza che è 10 volte migliore rispetto al muro originario. Dunque si parla sempre solo di isolamento termico, ma l'involucro di un edificio ha anche degli altri parametri che sono importanti per l'efficienza energetica e soprattutto per il comfort abitativo. Sono dei parametri che possono essere migliorati con un cappotto. Il principale parametro, a parte appunto la dispersione termica, è lo sfasamento, che a sua volta è figlio della cosiddetta massa termica. Più massa termica, più sfasamento. Allora, Elisa, che cos'è questo sfasamento e che cosa implica? Lo sfasamento misura in ore il tempo che ci mette il calore ad attraversare il muro. Un altro concetto molto importante è il concetto di massa termica, che praticamente esprime la capacità di un elemento costruttivo di accumulare o rilasciare calore. Facciamo l'esempio di un muro assolato disposto al sole. Questo muro assolato assorbe il calore dall'esterno e me lo porta all'interno. Se ha un buon sfasamento, questo tempo in cui il calore dall'esterno entra all'interno si allunga. Quando raggiungo le 12 ore, il calore che arriva dentro l'edificio non è più nocivo, perché ho già raggiunto la notte e quindi il momento di freschezza. Il fresco notturno mi raffredda il muro durante la notte e quindi con uno sfasamento di 12 ore riesco ad avere un buon comportamento fisico e un buon comfort abitativo interno. Faccio un controesempio, cioè un cattivo comfort abitativo ce l'ho quando in una stanza ho un'aria abbastanza calda, quindi mi trovo ad esempio un termometro che mi segna 24 gradi, è inverno, ho 24 gradi nella stanza, però quella stanza ha una parete verso l'esterno che non è isolata, non ha il cappotto, e quella parete, quel muro ha una sua temperatura sua specifica più bassa di 24 gradi, molto più bassa. Questo crea cattivo comfort. Banalmente, se mi avvicino a quel muro sentirò più freddo, se mi allontano sentirò più caldo. Quindi il comfort deriva dal fatto che la temperatura dell'aria e quella dei muri siano più o meno uguali, più o meno vicine. Ecco, questo perlomeno sia in estate che in inverno, perché posso avere un ottimo comfort invernale con un pessimo comfort estivo. Ecco, quando per esempio entriamo in un ambiente durante l'estate col condizionatore acceso e ci succede quella roba per cui sudiamo freddo, come si vuol dire, è dovuto al fatto che l'aria è molto fredda ma i muri sono bollenti, ci irraggiano, noi sudiamo, però l'aria è fredda e quindi le gocce che colano lungo esatto, le tempie sono congelate, no? Andiamo avanti. Abbiamo detto dell'isolamento, abbiamo detto dello sfasamento, poi ci sono degli altri effetti quando si mette un cappotto, che sono per esempio sulla traspirazione, sul trasporto dell'umidità. Sì, la traspirabilità di un muro è data dal passaggio di vapore acqueo attraverso il muro. Io in casa produco vapore acqueo, metto sulla pentola per fare la pasta asciutta, faccio la doccia, respiro. Questo vapore arriva sul muro, se il muro ha una buona traspirabilità permette il passaggio di questo vapore acqueo. Se il muro ha una cattiva traspirabilità, cioè una bassa traspirabilità, blocca questo passaggio e si forma una tasca d'acqua che può portare a delle muffe e alla formazione anche, nei casi proprio peggiori, di funghi anche. E poi c'è anche un impatto di tipo acustico quando si mette un cappotto. Sì. L'isolamento acustico è la riduzione del decibel quando attraverso il muro, è maggiore quando ho più massa, quindi più ho massa più riduco i decibel che attraversano il muro. Grazie Elisa Lancellotti, ma noi ci risentiamo domani per parlare di vari materiali disponibili e per cercare di fare anche dei confronti. Grazie per intanto. Grazie Maurizio e buona serata a tutti. Bene, allora cari ascoltatori, a domani. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.